Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Negli ultimi anni lo stiamo vedendo non solo rispetto all'Italia, ma che tanti altri paesi europei stanno soffrendo di ondate di emigrazione, cioè giovani che devono lasciare la Spagna, il Portogallo, l'Italia, l'Irlanda, la Grecia, tutti i paesi che sono stati colpiti duramente dalla crisi, e queste persone partono e lasciano indietro un territorio che sicuramente è impoverito. Sono stato spinto qui un po' dall'impossibilità di sopravvivere in Italia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, Capitali d'Italia, così si chiama questo splendido documentario che potete trovare su YouTube, realizzato da 13 reporter in 5 città continentali per raccontare la condizione dei giovani trentini emigrati in Europa. Un consiglio da guardare assolutamente. E per restare in Europa, Francia e Repubblica Ceca oggi in primo piano, oltre Alpe ci andiamo presto per raccontarvi la storia di chi, ricercatrice ad alto livello, ha provato a rientrare in Italia usufruendo del bando Montalcini, ma un'incredibile svista ha rallentato tutto il processo. Il caso di questa giovane ricercatrice è finito sui giornali, cercheremo di capire come è andata a finire perché ci sono anche delle novità. La tappa successiva ci porterà in Repubblica Ceca alla scoperta di un portale di lavoro che potrebbe accendere l'interesse di molti italiani all'ascolto che non escludono l'Est Europa per cercare opportunità. Infine, tornano le offerte di lavoro di Eures per andare a caccia di impiego nel vecchio continente. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright del ministro degli esteri Alfano: i nostri talenti all'estero non sono cervelli espatriati, ma italiani che hanno la testa e il cuore, sebbene non i piedi in Italia, che possono far parte di una rete non solo virtuale di nostri ambasciatori che danno una mano anche nell'attivare canali di dialogo. Come Ministero degli Esteri stiamo lavorando a un piano integrato di promozione del sistema Italia fuori dai confini, facendo squadra con tutti quelli che possono dare una mano, ha aggiunto Alfano. L'idea è indubbiamente buona, attendiamo però di capire se avrà un seguito concreto e non finisca per essere l'ennesima occasione persa. Dopo quasi 10 anni di crisi è raddoppiata la povertà in Italia. Se nel 2005 circa 2 milioni di persone si trovavano in povertà assoluta, 2 anni fa sfioravano i 4,6 milioni, il 7% dei residenti. E i nuovi poveri sono giovani. A ciò si aggiunge il triste record dell'Italia in Europa con la più alta percentuale di NEET tra i 15 e i 24 anni. Questi alcuni dei dati contenuti nel dossier Open Police Poveri Noi. Il paradosso è che se nel 2005 i più poveri erano gli anziani over 65, la crisi ha capovolto la situazione. In un decennio il tasso di povertà assoluta è cresciuto nelle fasce più giovani, di oltre 3 volte tra i giovani adulti e di quasi 3 volte tra i minorenni. Nella fascia d'età 15-24 anni l'Italia è il paese dell'Unione Europea con la più alta percentuale di inattivi, mentre in quella tra i 15 e i 29 anni è seconda solo alla Bulgaria. Eppure c'è chi, sfidando i tanti problemi italiani in questo paese, ci vorrebbe proprio tornare. Avendo accumulato una grande esperienza di ricerca a livello internazionale, mi sentivo pronta a stabilizzarmi e a creare il mio gruppo di ricerca, e ho quindi pensato che sarebbe stato bello farlo nel mio paese. Olivia Caramello, 32 anni, è una ricercatrice al lavoro in Francia, ha però un contenzioso aperto con l'Italia che potrebbe riportarla a casa nel prossimo futuro. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Partiamo proprio col programma Rientro dei Cervelli, avviato nel 2001 per facilitare il ritorno dei ricercatori italiani dall'estero e per incoraggiare quelli stranieri a lavorare nella penisola. Ha dato infatti risultati deludenti. Solo 519 ricercatori rientrati in 9 anni contro un flusso in uscita ben più consistente. Inoltre, solo un quarto dei ricercatori che sono entrati nel paese per effetto di questo progetto è rimasto in Italia per oltre un quadriennio. E quanto emerge dal rapporto Italia 2017 di Eurispes? Gianmaria Fara, presidente Eurispes, al microfono di Teresa Trillò. È fallito anche perché lo Stato nel frattempo, a parte gli slogan, il rientro dei cervelli in fuga, poi in sostanza non ha fatto niente per rafforzare quelli che dovrebbero essere gli asset strategici per mantenere i cervelli a casa. Insomma, non ha investito in cultura, non ha investito in educazione, non ha investito in innovazione, non ha investito nelle nuove tecnologie. Il problema italiano è sempre lo stesso, che si scambiano gli slogan con i dati di fatto. Qual è l'identikit del professionista ideale per il 2017? Secondo l'azienda di recruitment ACE, è un lavoratore con alle spalle un forte expertise e un brillante percorso accademico con indirizzo tecnico. Per i più giovani un plus è vantare esperienze presso aziende, magari estere. La lente del recruiter si sofferma anche sulle risorse, con approfondite conoscenze linguistiche e familiarità con i mercati esteri. 605 milioni dall'Europa per dare vita a 314 progetti sono le borse assegnate dal Consiglio Europeo della Ricerca, ciascuna del valore di 2 milioni. 39 i paesi nei quali vengono condotti i progetti vincitori in una classifica che per l'Italia ha come sempre un doppio volto. Se siamo secondi per nazionalità tra i vincitori, con 38 progetti preceduti solo dai tedeschi, le ricerche vincitrici condotte nella penisola sono appena 14. Le altre 24 arrivano da italiani che lavorano all'estero. E dal secondo passiamo all'ottavo posto. È aperto fino al 17 febbraio il nuovo bando talenti neodiplomati della Fondazione CRT, che mette a disposizione 1,8 milioni di euro. Circa 400 diplomandi potranno fare un'esperienza di lavoro all'estero di 3 mesi. Talenti neodiplomati è rivolto agli istituti secondari di Piemonte e Val d'Aosta, che prevedono l'attivazione di tirocini full time all'estero per i propri neodiplomati per un periodo non inferiore a 12 settimane. Tutte le info su fondazionecrt.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta oltre Alpe per raccontare la battaglia di una giovane ricercatrice che in Italia intende assolutamente tornare. Nome: Olivia. Cognome: Caramello. Età: 32 anni. Città di origine: Vicoforte, in provincia di Cuneo. Studi: matematica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? A Cambridge. Perché? Per fare il dottorato. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono ricercatrice postdoc. Dove? All'Institut des Hautes Études Scientifiques in Francia. Tornerai? Può darsi, se si creano le condizioni adeguate. J'ai pas choisi de naître ici entre vignerons et la violence. Nel 2014 ho fatto domanda per il programma di rientro dei cervelli Rita Levi Montalcini. Mi sono ritrovata classificata nella lista delle riserve a causa di un errore macroscopico compiuto da uno dei referenti chiamato a valutare la mia domanda. Olivia, allora partiamo dal punto di svolta nella tua giovane carriera che hai descritto così a Giovani Talenti. Tra poco diremo come sta andando a finire questa vicenda. Prima però ti chiedo, quale fu questo errore macroscopico? Beh, il referì in questione dichiarò nella sua scheda di valutazione che l'unico problema riscontrato nella mia domanda fosse la mancanza di articoli su rivista negli ultimi 2 anni, a dispetto del fatto che in realtà risultavano ben 6 articoli, di cui 3 citati e 3 accettati per la pubblicazione. Quindi una svista attuale, proprio una svista clamorosa, potremmo dire. Sì. E quindi mi tolse 10 punti relativi alla voce curriculum e pubblicazione, e questo causò la mia esclusione dalla lista dei vincitori. Allora, riavvolgiamo il nastro della tua storia. Studi matematica a Torino, ottieni la laurea magistrale. Perché una facoltà così scientifica? La matematica e la musica sono sempre state le mie grandi passioni, e già durante l'adolescenza mi dilettavo a riflettere a dei problemi di ricerca per conto mio, e addirittura decisi di saltare l'ultimo anno del liceo scientifico per potermi consacrare il più possibile a questa passione e cominciare gli studi universitari il più presto possibile. Quindi... Olivia, anche alla luce della tua esperienza successiva, il voto alla qualità dell'insegnamento universitario in Italia? Beh, diciamo purtroppo non molto alto, perché diciamo io posso solo commentare la qualità dell'insegnamento all'Università di Torino, perché ho studiato solamente lì, però lì quello che posso dire è che, cioè, la didattica non era all'altezza di quella dei migliori centri d'eccellenza internazionali. Giovanissima, opti per proseguire con un dottorato, ti trovi a scegliere fra 3 opzioni, tutte di altissimo livello: Cambridge, Oxford, MIT. Perché scegli Cambridge? Beh, scelsi Cambridge per potermi specializzare in una materia che è la teoria dei topoi, che corrispondeva pienamente ai miei interessi. Infatti a Cambridge lavorava uno dei massimi esperti mondiali di questa disciplina. E allora, Olivia, qual è stato l'impatto con questo, diciamo pure, santuario della ricerca e dell'insegnamento? Beh, per me è stato molto positivo, perché attraverso l'esperienza della ricerca in un ambito che mi appassionava molto, chiaramente ho potuto realizzare molte delle mie aspirazioni e valorizzare al meglio le mie capacità. Chiaramente all'inizio ero un po' intimidita anche a causa della differenza di livello con l'università da cui provenivo e anche della competitività dell'ambiente, però devo anche dire che l'esperienza dei percorsi di studio personale che avevo fatto a Torino comunque mi aveva fatto acquisire una notevole maturità matematica, e questo in realtà si è rivelato poi l'aspetto più importante, perché mi ha permesso di svolgere delle ricerche autenticamente originali. In modo molto sintetico, Olivia, cos'è La teoria dei topoi. Beh, la teoria dei topoi è una teoria che permette di unificare tra loro diversi settori della matematica in una maniera molto profonda e anche sorprendente. Utilizzando le parole di Grothendieck, che è stato l'inventore del concetto di topos, il tema dei topoi può essere paragonato ad un letto a due piazze, questa è proprio la sua espressione, che realizza il matrimonio tra l'algebra e la geometria, la topologia e l'aritmetica, la logica e la teoria delle categorie, il mondo del continuo e quello delle strutture discontinuo discrete. Allora, Cambridge ti fornisce il trampolino verso il palcoscenico mondiale della ricerca. In estrema sintesi, purtroppo non abbiamo il tempo, quanti seminari hai tenuto, quante università hai visitato da allora? Beh, diciamo, in totale all'incirca ho tenuto un centinaio di seminari in decine di università in giro per il mondo. A un certo punto, dopo il dottorato, lasci la Gran Bretagna per la Francia, ti sposti a Parigi. Perché? Diciamo che verso la fine della mia fellowship a Cambridge sono entrata in contatto con dei matematici di Parigi che, apprezzando i miei lavori, mi hanno proposto di venire a lavorare all'IHS, che è la Institut des Hautes Études Scientifiques. Questa è stata una scelta molto naturale perché l'IHS è il luogo in cui i topoi sono stati originariamente prodotti. Qual è il miglior posto? Quindi per me, insomma, è stato molto, molto interessante, e d'altra parte i professori dell'istituto sono particolarmente sensibili a questo tipo di studi. Dunque, c'è anche da dire che tu nel tuo girovagare per l'Europa in realtà rientri in Italia. È un anno di postdoc alla Normale di Pisa, 6 mesi all'Università di Milano. Che Italia hai ritrovato, professore? Professionalmente parlando. Sicuramente ricordo con grande piacere il periodo trascorso a Pisa, perché in quell'occasione organizzai un corso sulla teoria dei topoi a cui presero parte non solo molti studenti della Normale, ma anche diversi giovani provenienti da altre parti d'Italia. Quella è stata l'occasione che mi ha permesso veramente di toccare con mano quanto l'Italia sia ricca di risorse intellettuali. Questo è molto importante, però insomma penso che anche al nostro paese manchi la convinzione che sia fondamentale attrarre talenti e non perdere. Ecco, questo è un altro punto importante, bisogna essere attrattivi. E a proposito di attrattività, in questo periodo ti candidi al bando incriminato per il rientro dei cervelli e ti chiedo subito perché in primis hai cercato un rientro in Italia utilizzando lo strumento del programma Montalcini. Beh, diciamo che avendo accumulato una grande esperienza di ricerca a livello internazionale mi sentivo pronta a stabilizzarmi e a creare il mio gruppo di ricerca, e ho quindi pensato che sarebbe stato bello farlo nel mio paese. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Olivia Caramello, 32enne ricercatrice in logica matematica a Parigi. Olivia ci ha provato a rientrare in Italia dopo una brillantissima carriera oltreconfine che l'ha portata nelle più prestigiose università mondiali. Si è candidata al bando Rita Levi Montalcini per i cervelli di rientro, ma una svista ha rallentato tutto il processo, obbligandola alla inevitabile trafila dei ricorsi. La farà Olivia a tornare nella penisola sfidando anche la nostra elefantiaca burocrazia? Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. Abbiamo già parlato dell'errore di valutazione, insomma ti vennero sottratte di fatto delle pubblicazioni che in realtà avevi fatto e per questo sei scesa in classifica. Che idea ti sei fatta, Olivia, di quella vicenda un po' strana? Insomma, il solito problema legato a una certa superficialità all'italiana, aggravato successivamente dall'ottusità della nostra burocrazia che poi ha tirato le cose in lungo, o doveva forse passarti davanti qualcun altro meno qualificato? Chiaramente rimasi molto stupita, ecco, dall'errore del referì, anche perché una delle pubblicazioni, che secondo lui non esistevano, era addirittura allegata alla domanda. Ecco, quindi e diciamo che la cosa che mi deluse maggiormente fu poi la reazione del MIUR alla mia richiesta di riesame, perché chiaramente appena mi resi conto di questo errore scrissi immediatamente chiedendo la rettifica dell'errore e la conseguente reintegrazione del punteggio, ma il MIUR mi rispose in maniera negativa e peraltro non motivata, e questo chiaramente mi costrinse a presentare il ricorso, il quale mi diede ragione, ecco. Ma sì, infatti tra poco ci arriviamo, apro e chiudo una parentesi, la tua carriera accademica non si è fermata. Dove lavori e con quale incarico? Adesso sei sempre a Parigi, tra l'altro. Sì, adesso sono ricercatrice postdoc all'IHS e porto avanti questo programma di unificazione, diciamo, di diverse teorie matematiche utilizzando i topoi. Arriviamo alla fine della storia. Il tuo ricorso, lo dicevamo, sul bando per il rientro dei cervelli non si è fermato. Allora, a che punto siamo? Abbiamo buone probabilità di rivederti in Italia o alla fine resterai all'estero? Non lo lo so, perché diciamo i giudici del TAR hanno accolto il mio ricorso ordinando al MIUR di rivalutare la mia domanda nel termine di 30 giorni dalla notifica, che è avvenuta il 7 dicembre. E il problema è che diciamo a distanza di 2 mesi il MIUR pare non aver attivato alcuna pratica di riesame, e per di più recentemente ho ricevuto un'offerta per una posizione di livello superiore all'estero, quindi insomma. Allora, se qualcuno dal MIUR ci sta ascoltando oggi sabato, tenga presente questa storia, perché forse ci stiamo facendo scappare un altro cervello con la C maiuscola. Olivia, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Beh, una cosa è certa: noi italiani non siamo sufficientemente consapevoli delle straordinarie ricchezze artistiche, culturali e naturalistiche del nostro paese. Io stessa, prima di partire per l'estero, non davo la giusta importanza a questi aspetti. Io penso che l'Italia debba imparare a valorizzarsi maggiormente e a investire nelle nuove generazioni con fiducia e anche consapevolezza dei propri limiti, ma sapendo che anche gli altri paesi ne hanno. Ci raggiunge ora in linea il professor Antonio Di Nola, professore di logica matematica all'Università di Salerno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professore, lei si annovera tra gli estimatori di Olivia Caramello, avendo potuto lei stesso lavorare insieme a Olivia. Cosa ci insegna la sua storia? Beh, che innanzitutto il talento è evidente, quindi si vede subito, e credo solo che talvolta sia necessario solo un po' di tempo e che ci voglia coraggio, scommettendo sulla profonda intuizione, e questa scommessa paga sempre, insomma. Ecco, fare ricerca all'estero è inevitabile e normale per le nuove generazioni di logici italiani, lei ci ha scritto. Più per scelta, quella di contaminarsi con altre scuole di pensiero, o più per necessità, professore? No, è obbligatorio, credo che sia proprio necessario. Un profilo internazionale, un'apertura mentale, come poco fa ha testimoniato Olivia, è necessario. Ovviamente questo non deve costituire un ostacolo al rientro, al completamento anche in Italia. Se il processo di rientro di un giovane logico matematico si inceppa, credo che la causa sia sommamente dovuta alla scarsità di risorse che l'Italia destina alla ricerca di base. Lei riflette a giovanitalenti@radio24.it. Ci descrive in breve lo stato di salute della scuola di logica italiana. Io dico che è ottimo per quanto riguarda la presenza di giovani valenti e prestigiosi ricercatori. È insoddisfacente per quanto riguarda i finanziamenti per potenziare nuove linee di ricerca. Ancora una volta devo citare l'esempio di Olivia. Professore, mi ha molto fatto riflettere la conclusione della lettera che ci ha scritto a Giovani Talenti. È difficile instaurare una tradizione scientifica, opera che richiede generazioni, mentre è facile distruggerla per una irragionevole esiguità di risorse impiegate per sostenerla. Allora, professor Di Nola, quanto l'Italia è a buon punto in questa fase di distruzione? No, diciamo che siamo a un punto critico, veramente siamo a un punto critico. E guai a pensare che in momenti di crisi economica si possa limitare il sostegno alla ricerca di base, che peraltro il finanziamento, almeno relativamente alla logica, insomma, poche risorse, non è che bisogna investire granché, è proprio creare delle posizioni, un po' di posizioni in più. Noi siamo ridotti al lumicino, e credo che sia un errore pensare che regolamenti e leggi soltanto garantiscono l'efficacia della ricerca. Ecco, c'è troppa fiducia nelle riforme, nelle leggi, e invece poco impegno nel finanziamento. Grazie professor Antonio Di Nola, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie e auguri ad Olivia. Auguri ad Olivia, ovviamente. Domanda di rito per Olivia Caramello: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio principale è quello di orientare le proprie scelte in funzione delle proprie passioni. D'altra parte, non si possono raggiungere traguardi elevati nel proprio lavoro se non si ama ciò che si fa. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi spazio alle ultime dall'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni 2 settimane vi forniamo dritte e utili per andare a lavorare in Europa. Lucilla Ricci di EURES Italia. Proprio in questa settimana stiamo promuovendo un'opportunità rivolta in modo particolare ai giovani, e proviene dalla Francia, dalla società francese Disneyland Paris, quindi dal parco di attrazione ubicato vicino a Parigi, e ricercano circa 100 giovani interessati a lavorare nel parco di attrazione. I ruoli sono un po' particolari perché è necessario interpretare in costume i ruoli dei personaggi Disney più famosi, e per partecipare alle parate che si svolgono all'interno del parco è fondamentale avere una possibilmente ottima conoscenza della lingua francese o della lingua inglese, avere un discreto livello di danza. Non è necessario essere professionisti, ma bisogna essere in grado di danzare, e se possibile con delle caratteristiche fisiche somiglianti ai personaggi Disney da interpretare. La sede del lavoro è il parco di attrazione vicino Parigi, Marne-la-Vallée. Il contratto può essere per alcuni casi a tempo indeterminato, ma nella maggior parte dei casi è un tempo a durata determinata, per una durata che varia da 4 a 8 mesi. Il contratto prevede il rimborso delle spese di viaggio per andata e ritorno per chi rimane con un contratto a tempo determinato e solo per andata per un contratto in tempo indeterminato. Il salario varia da 1.500 euro circa lordi a 1.700 a secondo del profilo, ed è importante ricordare che chi vuole partecipare si tratta di una vera e propria audizione, quindi non è necessario inviare il curriculum, ma è necessario presentarsi puntualissimi il 9 marzo presso lo IALS a Roma in via Cesare Fracassini 60. Mi raccomando, puntuali alle 10, perché chi arriverà dopo le 10 purtroppo non sarà ammesso alla selezione. È importante presentarsi con un curriculum vitae redatto o in lingua francese o in lingua inglese, un documento d'identità valido ed una penna. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Avete mai pensato di trasferirvi nell'est Europa per cercare opportunità? Lo sapete che in Repubblica Ceca il vostro curriculum potrebbe interessare? La nostra Camera di Commercio a Praga ha lanciato a questo proposito un sito internet dove poter spulciare le offerte e candidarsi, in un paese peraltro con tassi di crescita interessanti e un'economia in espansione. Matteo Mariani, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Repubblica Ceca. In Repubblica Ceca il tasso di disoccupazione è oggettivamente molto basso, stiamo oscillando tra un 4,5 e un 6% a livello nazionale, che vuol dire che nei distretti produttivi industriali come Posen, Pilsen o Brno e nei centri di servizi come Praga scende addirittura tra il 3 e il 4%. Ecco, andiamo allora a vedere un po' per gli italiani quali potrebbero essere i lavori più interessanti. Per gli italiani bisogna sempre distinguere in questo paese due tipologie di lavoro. Uno, tutto il circuito internazionale. Ci sono già, Praga è stata scelta negli anni 2000 da numerose multinazionali americane, europee, diciamo globali, come sede europea o centro europea. Quindi ci sono già molti giovani italiani che lavorano in inglese ed altre lingue. Poi c'è il secondo gruppo, diciamo, dove è richiesta in genere la lingua ceca, e allora il discorso si complica un pochino, perché è una lingua comunque difficilmente accessibile, che richiede uno studio. Poi c'è un altro settore, che invece è quello della ristorazione, dell'oreca, dove gli italiani possono anche avere delle opportunità sia per il know-how, per la cultura dell'ospitalità italiana, dove anche qui ci sono delle mancanze importanti a livello di forza lavoro. Quale tipo di offerte lavoro puntate a pubblicare su lavoro.cz? Allora, noi abbiamo cercato innanzitutto di dare uno strumento ai nostri associati con le offerte di lavoro che avessero l'italiano, diciamo, tra le lingue richieste. La reazione da parte delle aziende, mi sembra di capire, è stata buona. È stata buona perché, come dicevo prima, il problema della ricerca del personale oggi è probabilmente l'unico vero problema macroeconomico che c'è in Repubblica Ceca, che sta frenando un pochino la crescita di un paese che sta andando molto bene. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.lavoro.cz. Un motivo per restare o tornare. L'Agenzia Spaziale Italiana ha assunto ricercatori per la prima volta nella sua storia. Lo fa sapere lo stesso ente, rilevando che le assunzioni segnano un cambio strategico dell'ASI. I ricercatori assunti sono 16, 7 dei quali donne, 3 rientrano in Italia, una viene dall'estero per fare ricerca qui. Anche l'Università Roma 3 è scesa in campo a gennaio per reclutare eccellenze italiane e straniere, con un procedimento inedito nella penisola per un grande ateneo. Una call internazionale per la ricerca di 2 professori di prima fascia. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice. Basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it.